Orlando Furioso 500 anni. Cosa vedeva Ariosto quando chiudeva gli occhi? A Ferrara i capolavori di Mantegna, Botticelli, Raffaello, Tiziano e altri. Al Palazzo dei Diamanti fino all'8 gennaio. palazzodiamanti.it. Ad alta voce. Tommaso Ragno legge Conversazione in Sicilia di Elio Vittorini. Quarta puntata. Alle 3, nel sole di dicembre, dietro il mare che scoppiettava nascosto, il trenino entrava, piccoli vagoni verdi, in una gola di roccia e poi nella selva dei fichi d'India. Era la ferrovia secondaria in Sicilia, da Siracusa per le montagne. Sortino, Palazzolo, Monte Lauro, Vizzini, Gran Michele. Cominciarono a passare le stazioni, casotti di legno col sole sul cappello rosso di capistazione, e la selva si apriva, si stringeva, di fichi d'India alti come forche. Erano di pietra celeste, tutti fichi d'India, e quando si incontrava anima viva era un ragazzo che andava o tornava lungo la linea per cogliere i frutti coronati di spine che crescevano, corallo, sulla pietra dei fichi d'India. Gridava al treno mentre il treno gli passava davanti. Soffiava vento entro le cave della foresta. Lo si sentiva alle fermate suonare come già dianzi il mare. Un vento minuto di scoppiettii. Poi svolazzava un lembo di bandierina rossa. Si arrivava, si ripartiva. E tra i fichi d'India apparivano case. Il treno si fermava sulle arcate di un ponte e dal ponte girava la gradinata dei tetti. Si attraversava la galleria. Si era di nuovo tra i fichi d'India e scoglieri di roccia. E di nuovo non si incontrava altra anima viva che un ragazzo. Egli gridava, gridava al treno mentre il treno gli passava davanti, e il sole era sopra al grido di lui, sulle bandierine rosse, sui cappelli rossi dei capistazione. D'un tratto, poi, un cappello rosso, una bandierina rossa, un grido di ragazzo furono senza più sole, e sotto i fichi d'India fu buio. Comparve un lume. Un asino bigio guadò un sentiero d'acqua e si salì e si passarono gallerie, si videro lunghe schiene di montagne e alle fermate giù in una conca quattro luci, cinque luci, i paesi. Poi si udì un fragore di torrente e una voce disse «Siamo a Vizzini!» E il fragore del torrente si fissò ai piedi del treno. Eravamo fermi. Si scese lungo l'acqua nella notte piena e da una parte c'era la montagna. Dall'altra il cielo. Quello era Vizzini e vi passai la notte in una camera di locanda che odorava di carrube. Non c'era la corriera per la mia destinazione e io avevo sonno di due notti e freddo e non mi importava di non avere trovato la corriera, non mi importava che di dormire e dormii là, profondo come sotterra sotto quell'odore di carrube. E mi alzai l'indomani, fatto anche di carrube con quell'odore ormai in me, alla luce che entrava dalla finestra senza imposte, e viaggiai come se il sonno continuasse in corriera lungo il torrente da Vizzini Alta sopra tre valloni verso più in alto nelle montagne per tre ore, fino a che uno disse neve e si fu arrivati. Ma guarda, pensai, sono da mia madre. Quando dalla corriera scesi a piedi la lunga scalinata che portava ai quartieri alti del paese di mia madre. Il nome del paese era scritto su un muro come sulle cartoline che io mandavo ogni anno a mia madre. E il resto, quella scalinata tra vecchie case, le montagne attorno, le macchie di neve sui tetti, era dinanzi ai miei occhi come d'un tratto ricordavo che era stato una volta o due nella mia infanzia. E mi parve che essere là non mi fosse indifferente. E fui contento d'esserci venuto, non essere rimasto a Siracusa, non avere ripreso il treno per l'Alta Italia, non avere ancora finito il mio viaggio. Questo era il più importante nell'essere là. Non aver finito il mio viaggio. Anzi, forse averlo appena cominciato. Perché così almeno io sentivo, guardando la lunga scalinata e in alto le case e le cupole, e i pendii di case e roccia, e i tetti nel vallone in fondo, e il fumo di qualche comignolo, le macchie di neve, la paglia. e la piccola folla di scalzi bambini siciliani sulla crosta di ghiaccio che era in terra nel sole intorno alla fontana di Ghisa. Ma guarda, sono da mia madre, pensai di nuovo. E lo trovavo improvviso esserci, come improvviso ci si ritrova in un punto della memoria, e altrettanto favoloso. E credevo di essere entrato a viaggiare in una quarta dimensione. Pareva che non ci fosse stato nulla, o solo un sogno, un intermezzo d'animo, tra l'essere a Siracusa e l'essere là. E che l'essere là fosse effetto della mia decisione, di un movimento, della mia memoria, non del mio corpo. E così anche il mattino nell'essere là, così anche il freddo della montagna e il piacere di esserci, e nemmeno provavo rammarico per non avere potuto esserci la sera prima, in tempo con lo scadere dell'onomastico di mia madre, come se quella luce fosse ancora del giorno 8 e non del giorno 9, o fosse d'un giorno in una quarta dimensione. Sapevo che mia madre abitava nei quartieri alti. Ricordavo di avere salita quella scalinata quando si veniva là a trovare i nonni nella mia infanzia. E cominciai a salire. C'erano fascine di legna sugli scalini davanti a qualche casa e salii. E ogni tanto c'era un urlo di neve e nel freddo, nel sole del mattino, quasi mezzogiorno ormai, arrivai finalmente in alto sopra l'immenso paese della montagna ai valloni chiazzati di neve. Non si vedeva gente, solo bambini scalzi coi piedi ulcerati di geloni. E girai tra le case in alto intorno alle cupole della grande chiesa madre, che anch'essa riconoscevo antica nella mia memoria. Girai con la cartolina degli auguri in mano. Su di essa avevo il nome della strada e il numero della casa dove abitava mia madre, e potei andare diritto molto facilmente, guidato nella mia ricerca dalla cartolina, come un portalettere, un po' anche dalla memoria. A qualche bottega che vidi di sacchi e barili, volli domandare inoltre. E così arrivai in visita dalla signora Concezione Ferrauto, mia madre, cercandola come un portalettere, con la cartolina di auguri in mano e il nome, Concezione Ferrauto, sulle labbra. La casa era l'ultima della strada indicata, a cavallo di un piccolo giardino con una breve scala esterna. Salii nel sole, guardai ancora una volta l'indirizzo sulla cartolina e fui da mia madre. Riconobbi la soglia e non mi era indifferente esserci. Era il più pieno del viaggio nella quarta dimensione. Spinsi la porta ed entrai in casa e da un'altra stanza una voce disse «Chi è?» E io riconobbi quella voce. Dopo 15 anni che non la ricordavo, la stessa di 15 anni prima, ora che ricordavo. Era alta, chiara, e ricordai mia madre parlare nella mia infanzia da un'altra stanza. «Signora Concezione», dissi. La signora apparve, alta, con la testa chiara, e io riconobbi perfettamente mia madre, una donna alta coi capelli castani, quasi biondi, e il mento duro, il naso duro, gli occhi neri. Aveva sulle spalle una coperta rossa in cui si teneva calda. Risi. «Ebbene!» «Tanti auguri!» dissi. «Oh! È Silvestro!» disse mia madre, e mi venne vicino. Io le diedi il bacio filiale sulla guancia. Lei mi baciò sulla guancia e disse «Ma che diavolo ti porta da queste parti?» «Come hai fatto a riconoscermi?» dissi io. Mia madre rideva. «Me lo domando anch'io!» disse. Venne odore di aringa ad arrostire. Così mia madre soggiunse, «Andiamo in cucina, ho l'aringa sul fuoco». Si andò nella stanza accanto dove il sole batteva sulla spalliera di ferro scuro del letto e di là nella piccola cucina dove il sole batteva su ogni cosa. In terra, dentro una pedana di legno, c'era acceso un braciere di rame. L'aringa vi arrostiva sopra, fumando, e mia madre si chinò a voltarla. «Sentirai com'è buona», disse. «Sì», dissi io, e respiravo l'odore della ringa e non mi era indifferente, mi piaceva, lo riconoscevo odore dei pasti della mia infanzia. «Immagino non ci sia nulla di più buono», dissi, e domandai, Ne mangiavamo quando ero ragazzo. Altro che, disse mia madre, aringhe d'inverno e peperoni d'estate. Era sempre il nostro modo di mangiare. Non ti ricordi? E le fave coi cardi, dissi io, ricordando. Sì, disse mia madre, le fave coi cardi. Tu eri pazzo per le fave coi cardi. Ah, dissi io, ne ero pazzo. E mia madre, sì, ne avresti voluto sempre un secondo piatto. E così pure le lenticchie cucinate con la cipolla, i pomodori secchi e il lardo. E un rametto di rosmarino? No, dissi io. E mia madre, sì, è un rametto di rosmarino. E io, anche di loro ne avrei voluto sempre un secondo piatto. E mia madre, altro che. Eri come Esaù. Avresti dato via la primogenitura per un secondo piatto di lenticchie. Mi sembra di vederti quando tornavi dalla scuola alle 3, alle 4 del pomeriggio, col treno. Già, dissi io, col treno merci, nel bagagliaio. Prima io solo, poi io e Felice, poi io, Felice e Liborio. Tutti voi passerotti, disse mia madre, con le vostre teste piene di capelli e il muso nero, le mani sempre nere, e subito domandavate, ci sono le lenticchie oggi, mamma? In quelle case cantoniere della linea dove si abitava, dissi io. Si scendeva dal treno alla stazione, a San Cataldo, a Serra di Falco, ad Acquaviva, tutti quei posti che abbiamo girato, e si doveva fare un chilometro o due a piedi per arrivare a casa. E mia madre, sì, anche 3 chilometri qualche volta. Il treno passava e io sapevo che voi eravate in strada lungo la linea, e mettevo su le lenticchie a scaldare, l'aringa ad arrostire, e poi vi sentivo gridare «Terra! Terra! Terra!» «Come terra?» chiesi io. «Sicuro! Terra! Per qualche vostro gioco!» disse mia madre. E poi una volta, a Racalmuto, la casa cantoniera era su una salita e il treno doveva rallentare. E avete imparato a scendere dal treno in corsa e scendevate davanti alla casa. E io avevo una paura nera che andaste sotto e aspettavo fuori col legno. E ci picchiavi? Dissi io. E mia madre, altro che! Non ti ricordi? Vi rompevo le gambe con quel legno e anche vi lasciavo senza mangiare in qualche caso. Si rialzò con la ringa in mano, tenendola verso la coda ed esaminandola da una parte dall'altra. E io vidi, nell'odore della ringa, la sua faccia senza nulla di meno di quando era stata una faccia giovane, come io ora ricordavo che era stata, e con l'età che faceva un di più su di essa. Era questo, mia madre. Il ricordo di quella che era stata 15 anni prima, 20 anni prima, quando ci aspettava al salto dal treno merci, giovane e terribile, col legno in mano. Il ricordo è l'età di tutta la lontananza, l'impiù di ora. Insomma, 2 volte reale. Esaminava la ringa, tenendola alta, da una parte e dall'altra, non bruciata in nessun punto, eppure arsa tutta. E anche la ringa era questo. Il ricordo è l'impiù di ora. E questo era ogni cosa. Il ricordo è l'impiù di ora. Il sole, il freddo, il braciere di rame in mezzo alla cucina e l'acquisito nella mia coscienza di quel punto del mondo dove mi trovavo. Ogni cosa era questo, reale 2 volte. E forse era per questo che non mi era indifferente sentirmi là, viaggiare. Per questo era 2 volte vero, anche il viaggio da Messina in giù e le arance sul battello traghetto e il gran lombardo in treno e coi baffi e senza baffi e la verde malaria e Siracusa, la Sicilia stessa, insomma, tutto reale 2 volte. E in viaggio, 4ª dimensione. La ringa fu pulita, messa in un piatto, cosparsa d'olio, e io e mia madre ci sedemmo a tavola. In cucina, dico, col sole alla finestra dietro le spalle di mia madre avvolta nella coperta rossa e i capelli castani molto chiari. La tavola era contro la parete e io e mia madre seduti l'uno di fronte all'altra, col braciere sotto e il piatto della ringa sopra, quasi colmo di olio. E mia madre mi gettò un tovagliolo, mi allungò un piattino, una forchetta, tirò fuori dal cassetto un grosso pane consumato per metà. «Non ti importa se non stendo la tovaglia?» chiese. «Oh, no», dissi io. «E lei?» «Non posso lavare ogni giorno. Sono vecchia ora». Ma sempre nella mia infanzia si era mangiato senza tovaglia, tranne di domenica e festa. Sempre mia madre aveva detto che non poteva lavare ogni giorno, ricordavo. Cominciai a mangiare aringa e pane e chiesi: «Come mai non c'è minestra?» Mia madre mi guardò e disse: «Che sapevo che venivi tu?» E io la guardai e le chiesi: «Ma io parlo per te, non ti fai la minestra per te. Parli per me», disse mia madre. «Io non ho mangiato quasi mai minestra in vita mia. Cucinavo per voi e vostro padre, ma per me era questo il mio mangiare. Aringhe l'inverno, peperoni arrostiti l'estate, molto olio, molto pane». «Sempre questo?» chiesi io. «Sempre. Perché no?» disse mia madre. «Con ulive anche, naturalmente, e qualche volta carne di maiale, salsicce, quando si aveva il maiale». «Si aveva il maiale?» chiesi io. «Sì». «Non ricordi?» disse mia madre. «Si aveva il maiale qualche anno nelle case cantoniere, lo si allevava a fichi d'India e poi lo si ammazzava». Io qui ricordai la campagna attorno a una casa cantoniera con la linea del treno e i fichi d'India e con gridi di maiale. Si stava bene nelle case cantoniere, pensai. Tutta quella campagna per correre, senza coltivarla, senza contadini, solo con qualche pecora e gli uomini dello zolfo che passavano di ritorno dalle zolfare la notte, quando noi si era già a letto. Si stava bene, pensai, e chiesi: «Avevamo anche polli, no?» Mia madre disse di sì. «Ne avevamo qualcuno, naturalmente». E io dissi: «Si faceva la mostarda». E mia madre: «Si faceva ogni sorta di cose. I pomodori seccati al sole, i mostaccioli di fichi d'India». «Si stava bene», io dissi. E lo pensai, pensando ai pomodori a seccare sotto il sole, nei pomeriggi d'estate senza anima viva, in tanta campagna. Era campagna secca, color di zolfo. E io ricordai il gran ronzio dell'estate e lo sgorgare del silenzio. E di nuovo pensai che si stava bene. «Si stava bene», dissi. «Avevamo le reti metalliche. Erano posti di malaria, per lo più», disse mia madre. «Quella grande malaria», io dissi. E mia madre: «Grande in vero». E io: «Con le cicale». E pensai la foresta di cicale di là, dalle reti metalliche delle finestre della veranda, nella solitudine del sole, e dissi: «Io credevo che fossero le cicale la malaria». Rise mia madre. «Forse era per questo che ne acchiappavi tante». «Ne acchiappavo», io dissi. «Ma io era il canto loro che credevo malaria, non loro. Ne acchiappavo. Altro che», disse mia madre. 20, 30 ogni volta». E io: «Immagino che le acchiappavo per grilli». E chiesi: «Che ne facevo?» Mia madre rise di nuovo. «Ho idea che le mangiavi», disse. «Le mangiavo», esclamai io. «Sì», disse mia madre. «Tu e i tuoi fratelli». Lei rideva e io ero sconcertato. «Com'è possibile?» chiesi. E mia madre disse: «Forse avevate fame». E io: «Avevamo fame?» E mia madre: «Forse sì, ma se si stava bene in casa nostra», protestai. Mia madre mi guardò. «Sì», disse. «Tuo padre prendeva del denaro ogni fine mese, e allora per 10 giorni si stava bene. Eravamo l'invidia di tutti i contadini e la gente delle zolfare. Ma dopo i primi 10 giorni si diventava come loro. Si mangiavano chiocciole». «Chiocciole?» dissi io. «Sì, e cicoria selvatica», disse mia madre. E io chiesi: «Non mangiavano che chiocciole, loro?» E mia madre: «Sì, Tutti i poveri non mangiano che chiocciole, di solito. E noi eravamo poveri gli ultimi 20 giorni di ogni mese, e io. E mangiavamo chiocciole per 20 giorni, e mia madre. Chiocciole e cicoria selvatica. Io ci pensai su, sorrisi, e poi dissi, immagino che erano buone, dopo tutto. E mia madre, ottime, si possono fare in tanti modi. E io, come in tanti modi? E mia madre, semplicemente lesse, per esempio, o con aglio e pomodoro, o infarinate e fritte. E io, che idea, infarinate e fritte, con il guscio. E mia madre, ma si capisce, si mangiano succhiandole dal guscio. Non ricordi? E io, ricordo. Tutto il gusto è a succhiare il guscio, mi sembra. E mia madre, si passano ore succhiando. Tommaso Ragno ha letto Conversazione in Sicilia di Elio Vittorini. A cura di Anna Antonelli, Lorenzo Pavolini, Chiara Valerio. Regia di Luigi Iavarone. Per scaricare e riascoltare il programma, radio3.rai.it.